10 avanti. Avanti canale 10, avanti. Nada. Marco, eri tu prima? Chi è avanti? Lo profeta, sono... c'ho la voce calante oggi. Ciao. Ciao già. Stai accordando, per caso? No, negativo, perché? No, per riuscire a modulare. No, non ho toccato assolutamente niente, a parte l'antenna che è piegata, non ho fatto nient'altro. Perché? Cosa c'è che non va? No, per sapere se avevi SVR, dopo quella cosa lì appunto, sapere se avevi SVR, se era accettabile, ma mi pare tu abbia l'accordatore anche, no? Affermativo, no, guarda, sì, c'ho il ZG 999, no, non mi segna niente qua. Oh, c'è l'antenna piegata, non deve SVR, è fantastico. Adesso qua lo smitter a LED segna 920, però qua va 10, 20, 30, potrebbe essere un 925, ma non me lo fa vedere, capito? Io sono stranamente con il minimo sindacale, sto andando con, saranno sì e no 3 watt, seppure. Vabbè, in linea d'aria già siamo a vista, sei quasi su più del 30 qua nello strumentino della radio, quindi ottimo e abbondante. Adesso ho avuto un abbassamento di voce. Ehi, chi è? Ah, PMR. Capita anche a me, perché aspetta che abbasso. Capita anche a me, perché ho il vizio, anche quando sono accaldato, di deludarmi, tra virgolette, no? Di rimanere maglietta o comunque troppo leggero, poi tendo a raffreddarmi a casa, no? Finché proprio non sento freddo, però quando sento freddo mi ha già preso la gola, capito? E ogni volta mi frega così, per via di queste caldane, no? Certe volte basta che mi muovo un po' e vado in ebollizione, capito? Ehi. No, vabbè, a parte qualche giorno fa la temperatura era ancora più bassa, per cui dai, poi esci a fare la spesa, rientri, qua devi tenere in casa una temperatura idonea, perché c'è la vecchietta, insomma, che è abbastanza delicata, per cui io... ne faccio volentieri a meno del caldo artificiale, però purtroppo dai, in queste situazioni basta un attimo e ti frega. Eia, io poc'anzi sul 19 ho provato a controllare le stazionarie direttamente dall'apparato, siccome qua ha fatto un vento, allora il pranzo ha fatto un vento abbastanza terrificante, me ne ha mezzo stracciato le tende, cioè già erano mezzo stracciate, no? Non le abbiamo tolte, alla fine le lasciamo, ormai il danno è fatto, le tende parasole, e ho provato sul 19 se l'antenna c'era ancora, e ho visto uno sta a uno, cioè perfetto, e quindi come non pervenuta, dai, il maestrale, o quello che era. Eia, guarda, vabbè, io ho fatto la... a centrobanda sul 20 nella norma, chiaramente dal 30 in poi piano piano iniziano a salire le stazionarie, poi se salgo di una lettera sopra, chiaramente la cosa aumenta. Comunque in centrobanda è abbastanza stabile, cioè dall'1 avrò 1,1, 1,2, poi inizia a scendere verso l'1 a 1, e poi piano piano dopo il 20 piano piano ma stiamo parlando di 1 e 2 proprio scarso, cioè niente, poi chiaramente sale con, se saremo di una lettera. Sì, che poi io, come dico io, cioè fino a 1,5, comunque sotto il 2 è trascurabile. Se uno usa potenze normali, sotto il 2 Vabbè, dal 2 in poi basta fare, basta non fare passaggi falconiani. Io mi sono reso conto di questo, gli apparati hanno una certa resistenza e mi ricordo di aver trasmesso in più di un'occasione col 3009 senza antenna, cioè magari l'avevo staccata prima al tempo, andavo a pigiare, sai, io metto sempre lo squelch, quindi non mi accorgevo di eventuale QRM, non me lo ricordo, premevo e sai, quel secondo in cui ti rendi conto che magari lo smitter va a fondo scala, più il beep che dura 20 millisecondi, 200 millisecondi, quindi 0,2 secondi. Uno dice, perché si diceva, appena premi senza antenna brucia all'istante il finale, non è vero, non è vero. Credo che almeno alcuni baracchini reggono la botta, addirittura i nuovi hanno la protezione contro il CVR, vedi? Forse anche il 5005, il 7009 ce l'ha, il 9009 ce l'ha, penso anche il 5005, cioè quando c'è un SVR elevato istantaneamente stacca la trasmissione e ti dà un bip di errore, di avvertimento. Ho capito, no, qua ti ripeto, a parte il radiale che mi si è ammosciato, madre mia, Dio. Non so quante volte l'ho addrizzato, cioè sono veramente stanco, cioè proprio a parte della pazienza è inversamente proporzionale all'età, quindi più si diventa grandi e più la pazienza inizia a diminuire. La radio funziona egregiamente, perfettamente. Guarda, lo strumento mi dà, adesso ti dico, sono 7 watt con i picchi. Ah, e quindi vabbè, la situazione non è così drammatica, dai, come credevo. Ha detto, quindi è il radiale che si è un po' mosciato. Quello l'avevo riscontrato anch'io, in certe antenne LEM, tipo le boomerang. Se guardi dove stringi la vite radiale col galletto lì, dentro ci sono due dentini appena abbozzati, no? Messi a 180 gradi, mi pare, l'uno dall'altro. Magari una volta sgranati quelli che sono appunto leggermente, ma poco in rilievo, basta che si molli appena la vite e tende a mettersi il radiale verticale, in poche parole, anziché inclinato se ne scende giù. È una cosa che avevo rilevato con quelle dalla LEM. Invece certe altre antenne, certe altre boomerang hanno più dentelli, fatti meglio, fatti proprio in rilievo, che proprio incastrano bene, e quelle sono più toste, più dure a morire, ecco. No, guarda, allora, quella, scordati l'attacco originale, perché l'attacco originale con quella sorta di barilotto in ottone dove se n'è infilato praticamente il radiale di punta, quello è già, se n'è già andato da un po' di tempo praticamente con gli eventi atmosferici praticamente i due materiali hanno fatto reazione, praticamente si è gonfiato, ho dovuto praticamente tagliare la parte, la sorta, chiamiamolo barilotto, in ottone che aveva la filettatura, l'ho tagliato, ho recuperato il radialino di punta e per unire i due elementi ho usato del tubo di rame, quelli che si usano per idraulica, condizionamento praticamente, se non mi ricordo se 15-20 centimetri e ne ho lasciato metà sul radiale di base e metà l'ho messo, e metà per lo spazio del radiale di punta con degli spessori e delle fascette. Lì è resistente eccezionale, dopo l'innesto che si bigia, capito? È sempre la questione. Eia, mi è sembrato un break, avanti, io voglio entrare. Buonasera. Hai finito? Hai finito? Ti devo piombare di telefonate giorno e notte. Ciao Luca. Eia, quindi già, ho capito, è stato già, diciamo, aggiustato, strutturato, quello che è, da ingessato. Eia, ma tu pensa che la vecchia boomerang che avevo qua, che era quella della LEM, quella lunga, la full size, forse identica alla tua, stata piazzata, no, a parte che era già vecchia di anni, era stata piazzata qui nel 92. Io poi quando sono salito, dopo aver ripreso nel 2000, l'avevo cambiata nel 2012 la prima, la Ringo, no? Avevo trovato la boomerang, praticamente l'attacco della base era in briciole, il radiale era caduto e quell'attacco alla base, no? Dove abita il radiale, addirittura non sembrava nemmeno né ferro né cosa, mi sembrava giama cromata o nichelata che sia, giama, a pezzi era sul tetto. Lo stilo, vabbè, lo stilo è integro, però poi la vetroresina era tutta, aveva fatto quegli aghetti maledetti che ti entrano nelle mani, no, si era proprio la vetroresina, boh, non so se si può dire spolimerizzata, quello che è, insomma da buttare era. Ecco, vai Gianni. Ehi, ciao Luca, buonasera. Cosa ti volevo dire? Niente, guarda, io il problema è sempre lì, si bicia sempre i chimi, perché poi per il resto la base è ancora buona, l'isolamento quello nero è ancora buono, l'attacco radiale è ancora buono. Guarda, stavo pensando per dargli l'ultima chance, proprio per dargli l'ultima chance, di provare a procurarmi un tondino di alluminio, adesso non so se Marcedo in via Portatore se lo vende l'alluminio, oppure provare a scendere da Tecnomat alias Bricomen per vedere se ha un tondino d'alluminio più o meno dello stesso diametro del radiale di base, e allora lì forse riusciamo a recuperarla, capito? Scusami un attimo, mi devo allontanare. Eia. E beh Luca, riprendi. Maria, poveraccio. Oh, si sente tutto distorto, troppo distorto, troppo amplificato. Io mi chiedo come abbiano retto le arterie di Paoletto a quei tempi. Vabbè, era giovane, ma il padre soffriva di pressione alta. Se lui avesse avuto lo stesso problema, era a rischio. Poi ce lo facevano pagare a noi per buono e per nuovo. Immagino. Via. Casino. Casino. Sangio una gana oggi. E che non può ammazzare la palla. Non ce n'è voglia, non ce n'è voglia. Faccio tanto la ghetta, va. Da sopportarmi. Poi, allora, vediamo un po'. Allora, è lunedì 7, diciamo non lavoro perché è festa. Poi ho 25 Natale, il 26 non lavoro, il giovedì e venerdì, poi sabato lavoro, che è il 27. Già c'ho qualche giorno di riposo, ma non mi riposo un po'. Ehi, alle ferie sono una bella cosa quando si lavora. Anzi, non si vede l'ora che arrivino. Vabbè. Per me il discorso è diverso, io sono la vita in ferie. Ridi alle battute. Ah, non ridi? Posso squillare il telefono? Ecco, rieccomi. Mi è entrato l'americano anche. Watch over you. What's the American boys? Aspetta Luca, un po' parla, un po' no. Stava vedendo le ferie, quando c'è le ferie che non è a gana. Mamma mia. A svarione pure lui. Oh, e niente, no vabbè, c'era la vecchietta che stava dando i numeri, stava tentando un'impresa ma l'ho fatta desistere subito. E ieri è caduta, poverina. E quindi è meglio che stia tranquilla oggi. Già, io ti capisco, vabbè, diciamo, mamma già è ancora lucida, tra virgolette, da, non proprio, un po' opaca, ma non proprio lucida, però già parla, ragione, eccetera, intanto, vabbè, me ne viene alle 6 mattina in camera, magari ogni tanto dice, Marco, ma dobbiamo uscire oggi, e io magari ho appena preso sonno, quindi immaginati. Vabbè, troia. Certo che è veramente importante l'impegno che si deve produrre per, insomma, per cercare di diminuire i disagi il più possibile. Vabbè, ognuno poi fa la sua parte, per carità. Poi giustamente dipende anche dal tipo di acciacco. Va bene, chiusa parente, ti stavo dicendo poco fa, come ultima spiaggia stavo pensando di procurarmi un tondino di alluminio dello stesso diametro della base della bombola, chiamiamolo radiale verticale, quello grosso, perché quello che c'è in punta è troppo sottile. Se proprio voglio dargli l'ultima chance, provo a fargli questa modifica qua, vediamo se riesco a trovare qualcosa da Marcedu o da Tecnomat. Poi se hai qualche dritta, adesso non so se ferramenta a carbone tratta roba del genere, non ho idea. Se hai qualche dritta, ben accetta. Qua già, non ho idee. Io di solito quando le antenne cominciavano a dare qualche problema, qualche rottura, siccome non era integro il prodotto, mi buriavo, allora la facevo fuori, la regalavo, la davo, però me ne pigliavo direttamente funzionanti. Sai cos'è? Poi la rottura di scatola e scendere, c'è a Bricomat, Tecnomat, scusa, non Bricomat. A dover cercare tondini, infatti tu guarda, prima di scendere a Tecnomat, controlla il catalogo online, metti il termine e vedi cosa ti suggerisce. Se no in alternativa sì, cosa puoi vedere, ma lo stesso anche scendere da Marceddu per un pezzettino di metallo, a me romperebbe le palle oltremodo. Poi guarda, sono rimasto molto indietro, credo che l'OSA ha chiuso, vero, ufficialmente non esiste più il largo Cavallotti. L'altro che mi hai nominato chi è? Carboni. E dove si trova? Qual è quello per caso dopo il Ponte Rosello? No, allora Carboni dovrebbe essere quello praticamente che c'è, la strada che collega praticamente Pretanieta alla strada di Canica, dove c'è lo svincolo del gommista praticamente, dalla strada di Canica gira a destra per Pretanieta, dovrebbe essere lì il capannone, mi ricordo l'insegna ferramenta a carboni. Adesso il numero della strada non me lo ricordo, comunque dovrebbe essere lì. Al limite mi faccio una scappata in bici. Adesso sì, ho guardato prima di scendere giù da Bri, come guardo sempre online nella rivendita di Sassari se c'è quello che cerco. Adesso magari dopo gli do una sbirciata, vediamo un po' se, perché mi ricordo l'ultima volta che sono sceso per prendere altro, ho visto che c'erano delle piattine, degli angolari in alluminio, c'erano dei tondini, però quelli che avevo visto erano abbastanza grossi. Ma non mi costa niente dargli uno sguardo. Ti ripeto, quella è l'ultima chance che gli do, e da poi si arrampo. Sì, perché alla fine, cioè, se uno sta, dura, che ne so, qualche settimana, qualche mese, devi stare, sali, scendi, sali, scendi, sali, aggiusti, scendi, poi si spaccia di nuovo, alla fine conviene. Comunque credevo che il danno fosse maggiore, credevo che ci fosse passato lo stilo, se si fosse troncata, in poche parole, per il vento di oggi. No, no, te l'ho detto, si è praticamente lo stilo superiore, se c'è una piega dopo la giunzione che ho fatto io con l'accrucchio, e praticamente c'è lo stilo che è piegato a 45 gradi, capito? Quelle folate di vento forte che ha fatto me l'ha messa a banana, dai. L'ha curvato proprio, l'ha curvato. Cioè... Sì, ti ripeto, il pezzo finale, capito? Il resto dell'antenna è dritto, il radialino non c'ha niente, è curvato il radialino di punta, dove c'è subito dopo la giunzione, dai. E poi guarda, uno per simulare il radiale basta che faccia, guarda, il radiale caricato dovrebbe essere 2,75, come mettere un filo elettrico, un filo elettrico, un pezzo di rame ricoperto di gomma, quello che è di 2,75 della giusta inclinazione, tenuto in punta da... No, da un tirante, in modo da isolarlo, no? Come nel dipoli, no? Poi si ricorda che si è isolato, lo fissi e in teoria dovrebbe funzionare lo stesso. Tanto la boomerang è di una semplicità estrema, estrema. Eia. Vediamo se Luca può riprendere, Luca. No, Luca entra, fa la battuta e sparisce, dai. Oppure si sta cambiando, riposando, eccetera. Va bene, comunque aggiornamento e... Oh Gianni, il bastone, quello da un metro, desaparecido. Niente, ho cercato in camera dove doveva essere, non c'è. Stanzino 1, non c'è. Stanzino 2, non c'è. Camera del computer, non c'è. In questo salone qua negli angoli, sai. Niente, io non capisco, mi sta venendo il dubbio anche che l'avessi così con nonchalance prestato a qualcuno per un'antenna temporanea da balcone, tipo la buonanima, però la memoria, trovate, io lo faccio con tanta nonchalance che non me lo ricordo, anzi ero convinto che fosse a casa, però fatto sta che questa antenna non si trova. Quella di cui abbiamo parlato da un metro. Avevo anche preparato due fascette al posto della staffa mancante, sparita. Però l'altra c'è, è valida, dal giorno, no, che me l'avevi ridata, l'avevo solo pulita, se c'era un po' di nero dallo smog di quei maledetti pullman che ti affumicava nell'estate, quando tenevi le finestre aperte. Per il resto è perfetta, nuova di fabbrica, messa nella busta, riparata dalla polvere, nuova di trinca, quindi nel caso che già lo usai. Eia. Va bene, poi per i dettagli ci sentiamo in forma privata. Faccio un altro paio di passaggi, Marco, poi ti devo lasciare per faccende qua dentro le quattro mura. Vabbè, poi nel caso aspettiamo condizioni meteo migliori e vediamo un po' da farsi, dai. Questo è quanto. Comunque già, nel caso che tu voglia sostituirla e coso, vabbè, l'assunto lo sai già, è lì, è a disposizione. Poi casomai ho già preventivato la cifra simbolica, proprio per non metterti in imbarazzo, ma simbolica mi... chi so chi è? Te l'ho detto, non ho... è una questione etica, cioè non... E così e basta, capito? Poi già ci mettiamo d'accordo, non è che c'è il problema. Va bene, Marco, dai, io adesso devo scappare, vado a sbrigarmi alcune cose, se no poi mi rimangono nel groppone domani, quindi no, non a giocare proprio, me le sbologno adesso e ciccia. Dai, teniamoci in contatto e appena sei operativo da quel punto di vista lì, ci sentiamo e eventualmente concludiamo, d'accordo? Dai, per adesso buona serata e ci aggiorniamo presto, ok? Ciao Marco, grazie. Eia. Ciao Gianni, buone faccende in casa, buon tutto, e ci sentiamo in migliori occasioni, che non arrivano mai. Ciao Luca, sei ancora all'ascolto, e ciao agli ascoltoni, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Mio Gianfranco, mi. ciao Marco, come si dice? Basta la parola. Stavo rigliando ieri, vabbè, io vi origlio sempre, da codice Vittorino, almeno si ascolta qualcosa di utile, da a 525 presumo, non guardo nemmeno, tanto è tutto memorizzato, K. Con tutta la gente che c'è, no? Poi è facile, io già stiamo andando bene. Guarda, rispetto a una volta che sentivi proprio la greffetta, i soliti noti, no? Radioattori storici, così si facevano anche battute, si ride. C'era un piacere uscire in macchina, portare il ricevitore con l'antenna veicolare, era meglio che ascoltare l'autoradio, no? Con le solite menate faceva compagnia, ma adesso è poca roba, poca. E a questo proposito io ti volevo chiedere, ma in una città come Sassari, io volevo farlo, poi ho detto, ma conoscendo Gianfranco glielo chiedo, siccome i miei ricevitori da tavolo e palmare sono della Unide, quelli tutti analogici, conviene spendere quasi 300 euro di ricevitore Uniden DMR in una città come Sassari per un traffico che immagino sia più che limitato? Presumo che la risposta sia no. Vai tu. Purtroppo hai detto bene, assolutamente non ne vale la pena, perché come avrei sentito in tanti discorsi, il digitale è un po' come il fuoco, non si avvicina a nessuno, capito? E quindi è così. Poi se vuoi ascoltare altro, ti conviene lasciare i vecchi scanner. Io ho commesso l'errore di prenderne uno, che la verità fa tutto, è il top della tecnologia, Tetra, quello americano P25, tutta quella roba lì, però soldi buttati, proprio col cartellone grande, non scritto in maiuscolo, soldi buttati. Sì, vabbè, uno di fatto lo facevano tutti, una volta si ascoltava di più, non solo radioamatori. Bastava mantenere un po' di segreto, come si dice, di essere discreti quantomeno. Poi lì passato tutto in tetra, adesso penso che non ci sia materialmente più niente di udibile. Quindi adesso questi ricevitori, più che ascoltare un po' di discorsi amatoriali, non puoi fare altro, poi qualche PMR, ma per sentire le solite cose, come dice Antonello, un capriccio al tavolo 12, oppure mi hanno messo la pista di pattinaggio lì, attenzione c'è Maranza che si stanno fregando i pattini o roba del genere, comunicazioni futili così, dai. Non si ascolta, cioè, poco e niente, dai. Poi per esempio a me la banda aerea non piace assolutamente, la trovo un po' pallosa, poi il traffico si è ridotto, mi pare, da quando avevano ampliato, forse credo, funzioni digitali a monitor o quello che è, non so, sistemi particolari, non me ne chiede perché non so niente di niente, però ho notato una riduzione anche per la fonia. E poi cosa ascolti? La banda marina, sentire il meteo mar, cioè non c'è il tanto, dai. E quindi da, come pensavo, no, perché c'era uno scanner Uniden molto carino, palmare, era sia analogico che DMR più altre fesserie digitali, il minimo sindacale, però siamo già nell'ordine dei 300 euro, credo che lì basti la frequenza, solo che a quanto ho capito non... Ma come mai non decolla? Perché devi fare un po' di roba, programmazioni, ho sentito, codici colore, bla bla bla. O gira gira, la gente preferisce l'analogico perché è più cristallina la modulazione. Io francamente ho usato il digitale, il digital PMR, no? Con Antonello Pomponi avevamo questi due portatili. Però francamente a me la voce robotica così non piaceva niente, cioè preferivamo francamente un po' di fruscio di fondo, però la voce era cristallina, era naturale, non tutta artefatta, ecco, magari anche per quello, non lo so. Sì Marco, guarda, quello dipende essenzialmente... Innanzitutto è una questione d'abitudine, poi il fatto che sia artefatta è dovuta ai segnali troppo bassi che vengono corretti tramite un protocollo che si chiama FEC, che vuol dire correzione d'errore. Quando entra in funzione quello, chiaramente la radio viene un po' mutilata dalla sua qualità. Se invece il segnale è buono e le regolazioni soprattutto di preamplificazione sono abbastanza lineari, quindi non esagerate, è come il cellulare, stessa cosa, io lo uso tutti i giorni, anche perché rispetto a quelle prime è molto migliorato il codec, adesso c'è l'ambedue più e quindi la qualità è veramente buona. Ti dico di più che c'è una grossa differenza, poi da prove fatte anche recentemente, tra l'analogico e il digitale riguarda la distanza. La distanza è molto, cioè è particolarmente, si nota che va più lontano, in parole povere, no? Stiamo parlando di DMR, tu hai parlato prima di quelli che usavate voi, probabilmente sono DPMR, con la D iniziale, che è un altro protocollo proprio dedicato ai PMR 446, per intenderci. E niente, è tutto lì, è una questione d'abitudine. Il segnale basso è spettacolare perché non c'è segnale, senti la voce, quindi tutto lì, però no. Un po' poi la codifica sono cretinate. Nada, che io ricordi, sì, quelli erano Digital PMR della Polmar, mi pare Digital Work fosse il nome. Ma ricordo anche questa cosa, ambe più 2, 2 più, aveva tante opzioni. La programmazione allora era fatta di fabbrica, però io non mi fidavo a pasticciare perché addirittura c'era la possibilità di criptare, ma non è consigliabile, come dice il MISE. Una volta era vietatissimo, dice adesso non consigliabile, non capisco il... attira l'attenzione, boh, quello che è. E allora, avendo fatto prove sia, vabbè, a casa non fa, però su spiaggia, no? Tipo uno rimane lì, l'altro prende la macchina, se ne va 3 o 4 discese a mare più in là, io adesso non, in chilometri non mi ricordo quanti erano perché avevo fatto le prove con un amico, ma teorici 5, ma proprio con mezzo watt, con la potenza bassa. Però avevamo notato questa cosa, che dove perdevi con l'analogico, perdevi in digitale. Quindi praticamente lo usi, credo, in analogico, vabbè, passi in digitale, in poche parole, stesso canale, stessa frequenza, stessa posizione, dove perde uno perde l'altro. Cioè non avevamo notato alcuna come dicono molti, uffa, differenza nella portata. Conta una cosa, quelli sì, non saranno un prodotto professionale. Poi marcati Polmar per avere erano tipo Luiton, solite marche cinesi, no? Quindi tutto originale, antenna sua. Qualcuno vanta in ambito amatoriale e non solo che il DMR, come hai detto tu, delle ultime generazioni riesca a avere una portata maggiore a parità proprio di watt. Tu fai la prova proprio in riva al mare, sotto distanza, dove l'analogico perde e pare che il digitale ancora riesca a decifrare quello che è, però se i watt sono quelli, la magia dove sta, oh Gianfra? Perché se non c'è segnale, non c'è segnale. Rendo l'idea, io te lo dico in termini terra terra perché non sono esperto in questa roba qua, però me l'hai detto tu un attimo fa, ma appunto la magia in cosa risiede? Che a parità di watt, di distanza, tutto nelle medesime condizioni, il digitale va più lontano, avanti. Allora, essenzialmente nel fatto che è molto più resistente ai vari disturbi che ci sono in aria, poi dipende anche molto da che frequenze usi. E poi dal fatto che praticamente la differenza reale è che quando inizia a sentire uno S1 in FM, in VHF, UHF e così via, inevitabilmente con l'FM senti che la voce se ne va. Con la M non ne parliamo, non sentiresti proprio il tubo. Con l'FM senti che voce non ce n'è o è tutta disturbata. In DMR finché arriva il segnale, anche basso, finché lui riesce a interpretare i pacchetti, va bene. La radio è sufficientemente chiara da essere interpretata senza alcun problema, mentre quella là risulta confusa. Poi il secondo vantaggio è la larghezza di banda. Tu sai benissimo che minore la larghezza di banda è maggiore la portata, a parità di potenza vedasi il CV non occupa quasi niente di banda e va sicuramente più lontano di tanti altri sistemi, ecco. Quindi il DMR ad esempio occupa 12,5 che corrispondono all'FM a banda stretta. Se poi consideri che puoi dividerla in due, come si fa quando si è sotto ponte radio, diventa appena di 6,25, quindi molto molto molto stretta. E di lì anche la magia, come la chiami tu, che non è una magia, è una cosa fisica, così, sono le sue caratteristiche. Poi mi avevi parlato di un sistema diverso, sì, il digital PMR mi pare fosse sistema di trasmissione FDMA, dovrebbe essere Frequency Division Multiple Access, può essere, vabbè te lo dico, Charles, FDMA, invece il DMR è TDMA, Time Division, non so se influisca anche quel sistema lì. Io ho letto un po' di letteratura così terra terra, Wikipedia, ma non mi suggerisce niente, ecco, come pregio difetti, o comunque anche se l'ho letto l'ho dimenticato, ecco, ti parlavo ai tempi in cui lo usavamo, comunque non ne valeva la pena, non ne valeva proprio la pena, dai, sono altri soldi buttati, ce li ho tuttora, funzionanti, meglio la batteria ancora regge, però sono nell'armadio a fare sfoggio, a non fare sfoggio, perché tanto sono chiusi lì. Va bene, era giusto per provare, ma niente di che. Poi ti ho detto, la modulazione robotica, non naturale, te l'ho detto, è come la storia della TV digitale, cioè io preferivo, vabbè tu dici il progresso, ma avrei preferito vedere i programmi magari con un leggero effetto neve, ma vederli che non adesso, che o vedi benissimo o non vedi nulla. Qua ci sono dei canali, non lo so, non riesco a capire il senso. In una camera lo vedi con la stessa antenna, nell'altra lo vedi, poi i giorni pari, i giorni dispari, lo vedi, quello che non vedevi il giorno prima lo vedi lì e lì no. È troppo, troppo variabile. E poi in molti canali anche sono televendite, roba spazzatura, canali che trasmettono in VHS, sembra addirittura in 320x240 mandato in digitale, e l'immagine è sempre schifo fa. Boh, vabbè, questa è una cosa che io ti avevo sempre, a cui ti avevo accennato. Avrei preferito pochi canali, te l'ho detto, analogici, che tanti canali futili in digitale. Poi questione di punti di vista. Guarda, oramai la TV è tutta in UHF, quindi l'antenna VHF non serve più a niente. Il fatto che poi ci siano tante stazioni, che neanche io onestamente riesco a capire il senso, è come che una persona ogni giorno si prenda 10 kg di pane, se ne mangi il pezzo che più le piace e poi tutto l'altro lo butta via. E così secondo me la televisione, perché in effetti molte sono di televendite, di cose assurde, che poi sono di truffe, non ne parliamo. Quindi tutta questa a parità di frequenza, larghezza di banda, viene occupata da queste cose qua, che presumo non interessano nessuno. Si può passare giusto da quelle specializzate in quadri, d'arte, cioè tutte quelle cose lì particolari, però tutte le altre sono porcherie, sono tutte le vendite alla Vanna Marchi. E niente, la qualità ovviamente non è neanche minimamente, sia audio sia video, non può essere paragonata a quella vecchia. C'è un abisso oramai talmente alto che non è neanche il caso di parlarne. Ecco, effetti neve, se c'è è perfetta. Ripeto, tutti quei difetti che hai detto tu sono dovuti al coso lì, all'impianto dell'antenna, che è la cosa più importante nel digitale, è l'antenna. Quindi una volta che c'è il segnale, quello lì lo devi ricevere bene dappertutto. Quindi, però ripeto, come termini di paragone, no, qualitativamente parlando, i sistemi di prima, FM, televisivi e compagnia cantante, sono preistoria. Sì. Vabbè, tutto per alta definizione, coso, ma vabbè, d'altronde la tecnologia va avanti. Però certe volte mi piaceva il classico giradischi, sai quante volte ho sputato veleno per CD, bastava un granello di polvere in asse col lettore ottico del CD e non leggevi più niente. Giradischi, anche se soffiato, sai, da qualche granello di polvere, male lo leggevi. I paragoni così, persino le audiocassette sembravano eterne rispetto ai CD, che se si graffiavano, ci opacizzavano, che adesso ti cadeva a terra malamente, si graffiava e addio il CD, magari comprato a caro prezzo. E anche mamma se ne lamentava, vabbè che mamma non è, ne ha fatto, cioè lei non aveva alcuna manutenzione per i CD, e li trattava veramente come sottobicchieri, e quindi vabbè, la colpa è sua. Però diceva, le musica, abbiamo musicassette di Papetti di 40 anni fa che suonano, sì, senti un po' il soffio di fondo tipico della cassetta, ma suonano ancora, capito? E lì ragionava in quei termini. Va bene. Cosa ti volevo dire? Ma sbaglio, ieri prima di chiudere hai nominato il trono di spade. Scusate, credo di aver capito che stavi chiudendo per vederti in quello. Assolutamente sì. Tra l'altro era la penultima, credo, puntata. Molto spettacolare, effetti veramente. Io l'avevo già visto, però non tutte le puntate. E adesso ne sto approfittando per vederlo tutto, perché è veramente un impegno di effetti notevole. Veramente notevole, ti ricorda un po' il Signore degli Anelli anche. Veramente fatti bene. Ed è così, sì, ho chiuso per quello, perché ripeto, c'era questo appuntamento ed era assolutamente veramente. Io ero un po' in apprensione perché ho sentito il temporale che si stava anche avvicinando, quindi dico, mamma mia, con la sfiga che c'ho, magari adesso cade un fulmine e buonanotte, non si vede più un tubo. E invece sì, un fulmine era caduto qualche giorno prima e mi ha fatto qualche danno, però va bene, anche quello ci sta. Ho sentito che di un botto terrificante dovuto al fulmine in quelle zone lì. Guarda, io li temo terribilmente, infatti l'altro giorno che c'era cosa di fulmine ho staccato tutto, spine, coso, che poi anche staccare antenna al baracchino non serve a niente, perché se cade proprio lì frigge tutto quello che c'è intorno, proprio lo frigge con questi microchip di adesso, è come quasi un'onda MP elettromagnetica, ci porta via tutto, in poche parole. Va bene, dunque sì, trono di spade di ieri, vista, rivista, eccetera, però mi piace sempre di guardarla, tanto vedo che bene o male sui vari canali si alternano, ogni tanto ridanno la serie. Come vedi i buoni propositi della biondazza, della platinata, alla fine le è partito l'embolo, secondo me è rifiorato il gene recessivo del padre del re folle, e come vedi le è partita la brocca e ha fatto danno. E parlando di quell'altro personaggio, la regina, cioè, nonostante le mostruosità fatte da lei, ne ha subite anche, ma alla fine, come piangeva eccetera, mi ha fatto quasi pena, nonostante proprio le mostruosità compiute, perché ne ha compiute. Tu la serie l'avrei vista, quindi la già capirei cosa intendo. Eh sì, ho provato pena per lei, soprattutto poi quando è morta col fratello che è crollato tutto quanto. Dunque, bella serie, guarda, una delle più belle serie fantasy di cui ricordo francamente. Bella, bella, bella. Guarda, faranno tanti sequel, prequel, si stanno inventando un bel di trame, secondo me non potranno mai eguagliare quella prima, quella originale. Da, tutta roba derivata che ormai avrà stufato anche, secondo me. Sì, certo c'è una violenza micidiale, ma la cosa è così, funziona così, c'è poco da fare. Sì, molto bella, decisamente è una cosa da non perdere. Poi io so anche come finisce, ma non lo voglio dire. Quello che ha un po' deluso è perché poi va interpretata anche tutta questa violenza e anche tutta questa voglia di potere che è dei giorni nostri, perché il film è, come dire, può essere definito tutta la serie fantastica, perché ovviamente i draghi non esistono, è così, però a posto dei draghi si può pensare anche ai droni. Ecco, e tutte queste cose purtroppo adesso stiamo tornando a quei tempi in cui c'è un re che vuole sempre più territori e tutte queste cose qua, e se ne frega se ammazza donne, bambini, gente innocente e così via. Purtroppo è così. Quindi anche quella, come si chiama, De Miris, quella regina lì dei draghi, si è guastata facendo quell'azione che ha fatto proprio nella puntata di ieri della serie, delle buone intenzioni ne sono piene le fosse, direbbe qualcuno. Sì, sì, sì, ma poi una cosa assolutamente non necessaria, cioè se voleva chiuderla lì, andava e dava fuoco alla torre proprio dove c'era la regina, invece ha distrutto un'intera città con gente innocente, e cioè, dalla faccia si è visto che era stravolta, è partita proprio di brocca. L'ho detto, il gene recessivo del re folle è riaffiorato, capito? Vabbè, sì, la fine anch'io la conosco, quindi vabbè, la sei anche tu, però c'è qualcuno non ha avuto niente. Vabbè, motivi politici, non ha avuto proprio niente, è ritornato risbattuto all'estremo nord, un po' ha lasciato l'amore in bocca, dai, quello lì. Comunque sì, una bella serie, guarda, mi è piaciuta a tal punto che, come per Matrix, la trilogia di Matrix, i primi tre, non l'ultimo, per carità, volevo prendermeli in disco, in DVD, o meglio in Blu-ray, se non che mi pare che non si trova nemmeno più in Blu-ray, cioè i Blu-ray sono passati di moda, io guardo su Amazon sempre non disponibile, non disponibile, credo che ormai lo streaming abbia sostituito del tutto persino i Blu-ray, e mi pare che si trovi ben poco su disco, e vabbè, poi vabbè hanno fatto, come si chiama? House of Dragons, non so come sia francamente, però mi è sembrata molto amoscia l'accoglienza rispetto alla serie originale, poi sai cos'è, era una novità, e come per tutti i film, quando cominciano a fare sequel, prequel, come per Alien, hanno riscaldato la minestra in tutti i modi, come per Terminator, per coso, quindi film anche, non serie TV, alla fine stanca, Star Wars, non sanno cosa inventarsi. Alla fine poi non riesci proprio a seguirlo, ti rompi le scatole. Per Star Trek lo stesso, hanno fatto tante di quelle serie nuove, stagioni nuove, con personaggi diversi, trame lasciamo perdere, tant'è che non le seguivo più, proprio non le seguivo. Non c'è il tanto, non c'è più il tanto. Ok, Gianfra, vista l'ora, siccome proseguiamo una cosa in TV con mamma, io vado e sentiamo. Qua vedo che per oggi langue, è entrato il profeta, abbiamo parlato di due cosette. La verità, non so se la ruota si attiva, perché qua sto accendendo poco, il poco che accendo, ma ho squelciato a manetta o il volume a zero e non so se il canale sia attivo qua. Oggi è stato un caso. Dai, ci sentiamo quando capita, io vi ascolto. Certe volte, anzi, la maggior parte delle volte i discorsi sono interessanti su, quindi. L'altro giorno stavate parlando di droni, anche lì ti fanno ogni anno è peggio, ti fanno passare la voglia di avere qualsiasi cosa, tutto, di fare assicurazioni, bollini, QR code da applicare, tutto, ti fanno zone rosse, siamo capiti. E quindi io ero un po' le prime armi con roba cinese, diciamo, non DJI, però. A parte che devi trovare gli spazi adatti, ti rompi le palle alla fine, gente che ti guarda male, che è convinta che stia spiando proprio lui, no? Nonostante che tu magari ce l'hai a 120 metri d'altezza, e dice, ma sta passando sopra la villa, la privacy, la cosa.